Radio Wombat, questa è Radio Wombat, 8 Hertz. E benvenuta primavera da 8 Hertz. Così, per omaggiare l'arrivo della primavera, ho pensato a questo pezzo, a questa composizione in realtà che si chiama Salterello, è appunto della tradizione italiana, in particolar modo centrale del Lazio, Marche e Umbria. E è una sorta di danza, insomma, con un ritmo abbastanza serrato e giocoso. E la prima trascrizione musicale la troviamo a metà del XIV secolo, quindi si parla del 1300. Era famosa la versione The Dead Can Dance, forse da Archettoni, se ricordo bene, che uscì in un disco più medievaleggiante che si chiamava Ion. Ovviamente, parlando di primavera, non potevo non tirare fuori Coil con il piccolo, diciamo, loro hanno fatto 4 EP sia sugli equinozi che i solstizi, ognuno a stagione, ognuno su questo giorno particolare ed esoterico dell'anno. Quindi stasera voglio mettere proprio un pezzo tratto dallo Spring Equinox, si chiama Mule's Milk or Under an Inquiet School, la parte 1. Sono tutti e 4 bellissimi, ma io sono di parte sui Coil, e intanto ascoltatevelo, che secondo me è meraviglioso come tutta la roba dei Coil. Hello. sempre bello ascoltare i Coil, anche le parti più droniche e ambientali, sempre scure, anche se il pezzo appunto è dedicato alla primavera, proprio con un'apertura di Hello Vari. E restando un po' su questo mood, vorrei proporvi un progetto di un duo, almeno su questo disco di Bristol, cioè di mezzo un'italiana che sta a Bristol, si chiama Burl. Questo è il primo lavoro che è uscito proprio per la sua etichetta, che si chiama Simula Records. Il lavoro del 2015 si chiama Mona, uscito proprio in cassetta e scaricabile sul Bandcamp dell'etichetta Simula. È un progetto un po' monastico, secondo me, è sempre su un mood abbastanza cupo e pesante, però in un modo molto particolare. Vado a mettere il pezzo d'apertura di questa cassetta di quattro brani, che si chiama Donum. Qui appunto sono due, sono Inga Burl che ha composto un po' tutta la musica, e le voci e la fisarmonica sono di Orsa Burl, e intanto noi ce l'andiamo a ascoltare. Buon ascolto. Thank you. questa era Pearl di Bristol, un progetto che ha iniziato nel 2015 in quel gran centro culturale inglese, e speriamo ci stia ascoltando e la saluto. E voglio ricordarvi che questa forse siamo a 6 mesi dalla nascita della radio, di Radio Wombat, e, oltre che all'ingresso della primavera. Voglio ricordarvi che insomma la nostra radio vanta di un ventaglio di trasmissioni invidiabili in tutto il mondo, e ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Se ti piace la classica, abbiamo un programma di classica che si chiama La fuga del gatto, tra parentesi sul pianoforte lo dico io, oppure Northern Soul e Funky in Soul Time. Sono programmi che parlano di musica a 360 gradi, come appunto 8 Hertz che lo state ascoltando, e come Slick Chick di Bloody Mary, che anche lei propone delle trasmissioni su tematiche tra le più disparate. Ci sono giornali radio nati da poco, c'è programmi di aneddoti sportivi e musicanza attigua, Tonight Live con bootleg vari abbastanza rari, Mortal Wombat su hip hop italiano e europeo e non americano, Uru sulla musica africana, e poi tanti altri, Cocchi al silicio appunto, Fuoco alle polveri, che è un container di interviste, musica e letteratura, l'Accademia della Brusca che appunto fa il programma prima del mio di linguistica, per cui anche i più giovani o chi vuole rispolverare un po' di linguistica, visto che il popolo italiano è un popolo ignorante, può ascoltarsi questa trasmissione che fa solo bene. Ricordo, poi non rompo, quasi finisco di rompere, che domani al Next Emerson a Firenze, scusate, non domani, sabato, ci sarà la serata proprio della radio, che farà un aperitivo con i DJ vari della radio. Io purtroppo non ci sarò per impegni, per portare la pagnotta a casa. E ci sarà poi a seguito il concerto dei Morcobot, un gruppo abbastanza conosciuto, un power trio, due bassi e batteria, belli violenti e strumentali, con altri gruppi annessi e connessi. Comunque abbiamo sentito Barl, un po' funerea, un po' monacale, e molto intima come musica, anche rituale, visto che anche nelle performance live spesso è coadiuvata da personaggi da body performer. Vorrei parlarvi di, visto che 8 Hertz mischia generi tra i più disparati, ma seguendo un filo non logico ma più profondo del cervello, delle frequenze appunto 8 Hertz, che recepisce e produce il cervello, vorrei parlarvi degli Audio Active, che sono un gruppo giapponese che ha fatto le cose tra le migliori negli anni 90. Erano tra degli sperimentatori tra elettronica e dub. Infatti i dischi migliori sono stati prodotti da Adrian Sherwood, che è un personaggio, un produttore molto grosso, cofondatore o fondatore della All New Sound, come il pezzo appunto che è uscito, come il disco che è uscito per questo brano che vi metterò. Erano abbastanza estremi nel fare dub e nel trovare soluzioni anche tra un pochino più miscelate a livello alchemico, E infatti tra i credits del disco, che si chiama appunto Apollo Choco, che è del 97, troviamo anche Chris Carter come aiuto in registrazione, quindi sulla produzione anche, come assistente alla produzione del disco. Sarebbe molto curioso sapere cosa combinava, però insomma, è un disco molto elaborato, con pezzi anche molto diversi fra loro, ma sempre legati da una spinta dal basso, dub, e da molta di foraggine, perché no? Il pezzo si chiama Coolness in My Foolishness, è molto cool, come dice spesso, il loop e il campione che si sente. Metterò altri pezzi loro in futuro perché è veramente un bellissimo disco questo e anche altri. Swimming in jewels in a big pool. Audioactive è appunto usciti prodotti da Adrian Sherwood per la ONU Sound, che è un'etichetta che cura molto il dub, ma non solo. Infatti ho scoperto da pochissimo un trio di giapponesi molto pazze che si chiama Nisennemondai, spero di pronunciarlo bene, che è un trio di Tokyo, basso, batteria e chitarra strumentali, apparentemente quindi una formazione base rock normalissima. Il nome si riferisce al Millennium Bug, tra l'altro sarà una traduzione giapponese di qualcosa del genere, ma non sono esperto. Vabbè, sono formato nel 99 e a un certo punto è presa di fare roba molto sintetica, pur avendo strumenti canonici, hanno anche dei synth e dei pedali, va bene, e comunque ha un ritmo unico, ricordano un po' i Suicide velocizzati, brani lunghissimi, e anche dal vivo li fanno forse anche meglio, infatti ho trovato dei live che erano molto belli e suonano anche tanto. Quindi Nisennemondai, sempre un'altra forse scoperta di Adrian Sherwood, ma escono per quell'etichetta la lunga suite che si chiama A, tratta dal disco N. Ascoltate perché sono veramente fuori di testa. Buon ascolto. Thank you. questo è il sound delle Nisennen Mondai, trio giapponese con un sound unico che va tra il trance ripetitivo, il post rock, il dub, insomma con tantissime influenze. Tra l'altro fanno interi dischi e interi live così, che credo sia molto difficile ti porti a uno stato psicologico e psichedelico non indifferente. Mi scordavo tra i vari programmi che ci sono, ma ormai che c'è stato, perché c'è stata l'ultima puntata la settimana scorsa, un programma sul prog, per chi è appassionato di prog, si chiama Il rovescio della medaglia, appunto il prog dalla A alla Z, che è finito, però sicuramente si reinventerà, o i fautori del programma si reinventeranno in qualche modo ancora più pazzo e ancora più master musicians. E vabbè, ci saranno delle news anche su 8Hz, ma prima di dirvele, intanto vi metto un pezzo di un caro amico che è Filippo Panichi, appunto ragionando un po' sulle ritmiche, visto che la prima parte era più ambientale e più intima. Andiamo su una primavera che ci auguriamo sia attiva al 100%, attiva nel senso di cose belle, non di obbligazioni, di obblighi che abbiamo, e si chiama Fast V, è una delle ultime cose che ha pubblicato sul suo SoundCloud, che se vi piace il suo stile, che spazia comunque molto, vi consiglio sempre di tenere nel browser, perché insomma ce n'è un po' per tutti i gruppi, per tutti i gusti, anche se non fa musica prog. E ci ascoltiamo con questo lavoro, credo fatto con programmi vari che glitchano il ritmo fondamentalmente, e questo è un lato di FP, ovvero Filippo Panichi, che saluto. E questo era un altro aspetto di FP, ovvero Filippo Panichi di Firenze, quasi un tuttologo della musica, sempre molto dimesso ed elegante nelle sue cose. Intanto vi voglio ricordare comunque che ormai Radio Wombat è così organizzata che oltre agli streaming ci sono anche le repliche. Nel caso di 8 Hertz sono sabato alle 14 e domenica alle 21. Vi ricordo anche qualche social, esiste il Facebook, se cercate Radio Wombat Firenze lo trovate immediatamente. Esiste il Twitter, basta che scrivete su Twitter, anzi twitter.com Radio Wombat Fi, ovviamente Wombat con la W. Il sito, ma se ci state ascoltando per ora lo conoscete, che comunque è wombat.noblogs.org. Aspettando di andare nell'etere vero e proprio, secondo me manca poco. La mail posta wombat@insiberia.net, per cui ci potete scrivere le proposte varie, ma anche sul Facebook poi alla fine. Comunque fate un po' come vi pare, informateci pure, basta che parlate della nostra radio. Nata come esperimento, ma sta andando avanti bene, dai, visto che Firenze è un posto abbastanza ostile alle novità che non siano proprio in un certo ambiente di fiorentinità data. Comunque, una delle grandi notizie è che la prossima settimana 8 Hertz ospiterà un personaggio abbastanza importante a Firenze, che è THX, almeno come nome d'arte. Sicuramente tanti di voi lo conoscono. Si dimena tra l'hip hop, il rap, l'industrial, qualsiasi forma espressiva. Fondamentalmente è anche un genio dei piatti, un DJ parecchio in gambe, attivissimo a Firenze. Non esiste che chi sta a Firenze anche da poco non lo conosca, o non si imbatta in una serata per lui. Insomma, nella prossima puntata ci sarà lui come ospite, ma non per parlare, ma proprio per fare un live alla radio, come le radio serie mondiali. Per cui per me è un grande onore, anche per la radio stessa, visto che sarà proprio il primissimo esperimento di live. Per cui perdonateci se ci sarà qualcosa che non funziona, se ci saranno dei ritardi. Comunque, prossima settimana sarà tutta da scoprire. Mi piacerebbe che anche voi ascoltatori la scopriste. Si parlava appunto di THX, per cui facendo pubblicità a lui e alla trasmissione e alla radio, mando un aspetto di THX tra i migliori, secondo me, che è il lato più noise, molto vicino a certe cose di Alec & Park che abbiamo sentito in trasmissione, e di Dalek, per cui insomma riferimenti per me molto grossi. È un live del 2014 fatto al Cycle Club, che è a Calenzano. Era a volumi devastanti, fece da apertura insieme a un altro paio di gruppi, a Sam Blasting, che fa techno hardcore miscelata al noise. Per cui ci gustiamo un po' la prima parte del concerto, che tutto non lo posso mettere. Comunque anche lì Trovate come riferimenti Bandcamp e quant'altro. Sono una persona molto attiva, tra l'altro anche dei siti molto interessanti che potrete scoprire seguendolo. Quindi iniziamo a ascoltarlo, ci sentiamo tra poco. Live THX. Settimana prossima a 8 Hz c'è lui, quindi se vi piace, insomma, ascoltatelo, eh. Cioè, poi è il primo live, per cui insomma, dai, supporto, dai. È il primo live qui alla radio, non il suo primo live. Thank you. Questo era un estratto di THX live al Cycle Club del 2014, e parlando appunto di primavera vi voglio far ascoltare una produzione che uscirà proprio a primavera, credo a fine aprile. Il progetto si chiama Petrolio, di Enrico Cerrato, che è un musicista molto attivo in ambito metal, suona nell'Infection Code, nell'industrial, nel jazz noise punk. Il disco che uscirà si chiama Di cosa si nasce, è prodotto da una catena di etichette tra cui la nostrana di Odrone Totens One, ma anche Taxi Driver Records, Volmere Industries, Scream Amore, È un brutto posto e vivere, che è un nome geniale per un'etichetta, e Brigante Records. Per cui ci andiamo ad ascoltare una versione demo di uno dei brani che forse sarà l'apertura del disco, ma svegliamo poco o niente, che si chiama El Coco, tra parentesi Do You Know Babau, e appunto mischia un po' sonorità elettroniche con sonorità più elettriche vicine per qualche aspetto a Nils Nails, ma gli avranno detto 2000 volte, ma in una forma comunque più personale. Ascoltiamocelo, ascoltatevelo, che è un disco e un personaggio che farà parlare di sé, secondo me. We'll be right back. questo è il suono di Petrolio, ovvero Enrico Cerrato nel suo progetto solista. E questo è quello che vi potete aspettare dal disco che uscirà a fine aprile di Cosa si nasce. E come abbiamo detto prima, noi ci avviamo verso la fine e come puntato sulla primavera e sulla psichedelia che tesse i percorsi inimmaginabili delle 8 Hz del vostro cervello, così come 8 Hz è questa trasmissione. Finiamo con un pezzo dei maestri, proprio Master Musician of Bookcake di Seattle, che tra i cui membri c'è Randall Dunn, che è un grossissimo produttore anche di roba estrema come i Sun, per cui insomma si parla di personaggi che sanno fare il proprio lavoro anche per band veramente particolari e estreme in quello che fanno. E appunto questo è un estratto di un live a Villette Sonic che mi è piaciuto ascoltandolo sul tubo del 2013, che è una versione di Arche, che è un pezzo di Far West, che è un disco loro. Mettendola vi auguro la buonanotte. Loro mischiano psichedelia a Desert Sound, a World Music, a roba orientale, araba, indiana e quant'altro. Vabbè, vi lascio, sennò vi sto a stressare il cervello. Ci sentiamo la prossima settimana con il live di THX, il primo live alla radio di Radio Wombat. Lo facciamo qua su 8 Hz. Buon ascolto.